Il direttore venne a chiedermi se volevo scendere. Ad ogni buon conto, aveva provveduto al mio collocamento nella sala da pranzo. Non vedendomi, aveva temuto che fossi stato ripreso da uno dei miei vecchi soffocamenti. Sperava che si trattasse solo d'una leggera laringite e mi assicurò d'aver sentito dire che la si curava con ciò che gli chiamava il calipto. Mi consegnò un messaggio di Albertine. Quell'anno non sarebbe dovuta venire a Balbec, ma, cambiato progetto, si trovava da 3 giorni non proprio a Balbec, ma a 10 minuti di tram, in una località vicina. Temendo che il viaggio m'avesse stancato, aveva rinunciato a quella prima sera, ma mi faceva chiedere quando avrei potuto riceverla. Mi informai, non per vederla, ma per evitare di vederla, se fosse venuta di persona. «Certo», mi rispose il direttore, «la signorina vorrebbe che fosse il più presto possibile, sempre che non abbiate impegni repellenti. Come vedete», concluse, «qui tutti quanti vi desiderano, in finitiva». Io invece non volevo vedere nessuno. Eppure, il giorno prima, arrivando, m'ero sentito riprendere dal fascino indolente della vita balneare. Lo stesso lift, silenzioso questa volta per rispetto, non per disprezzo, e rosso di piacere, aveva messo in moto l'ascensore. Salendo lungo la colonna, avevo riattraversato quello che per la prima volta m'era apparso come il mistero d'un albergo ignoto dove, quando ci si arriva da semplici turisti, senza protezione, senza prestigio, ogni cliente abituale che rientra nella sua camera, ogni giovane donna che scende a pranzo, ogni cameriera che passa lungo i corridoi stranamente delineati e la fanciulla che è venuta dall'America con la sua dama di compagnia e sta scendendo anch'essa per il pranzo, gettano su di voi uno sguardo nel quale non si legge nulla di ciò che si sarebbe voluto trovarvi. Stavolta, al contrario, avevo sperimentato il piacere fin troppo riposante da scendere in un albergo conosciuto, dove mi sentivo a casa mia, dove avevo compiuto una volta di più quell'operazione sempre da ricominciare, più lunga, più difficile del rovesciamento della palpebra, che consiste nello stendere sulle cose l'anima che ci è familiare al posto della loro che ci spaventava. Dunque, m'ero chiesto, ignaro del brusco mutamento d'animo che m'attendeva, avrei dovuto frequentare sempre nuovi alberghi, dove potessi pranzare per la prima volta, dove l'abitudine non avesse ancora ucciso ad ogni piano, davanti a ogni porta, il drago terrificante che sembrava vegliare su un'esistenza incantata, dove mi toccasse d'avvicinare le donne sconosciute che sogliono riunirsi e vivere in comunità, come in vasti polipai, negli alberghi di lusso, nei casinò e sulle spiagge? Ma aveva fatto piacere persino che quello scocciatore del primo presidente fosse tanto ansioso di vedermi. Intravedevo per il primo giorno grandi ondate, le azzurre catene montuose del mare, i suoi ghiacciai e le sue cascate, la sua elevazione, la sua maestosità negligente. Al semplice sentire, per la prima volta, dopo tanto tempo, lavandomi le mani, lo speciale odore del sapone troppo profumato del Grand Hotel. Odore che, nella misura in cui sembrava appartenere insieme al momento presente e al soggiorno passato, fluttuava fra l'uno e l'altro come il reale incanto d'una vita particolare nella quale si rientra solo per cambiare cravatta. Le lenzuola del letto che, troppo grandi, troppo fini, troppo leggere perché si potesse rimboccarle e farle stare a posto, si gonfiavano attorno alle coperte immobili volute, una volta m'avrebbero immalinconito. Si limitarono a cullare sulla scomoda, convessa rotondità delle loro vele, il sole glorioso e pieno di speranza del primo mattino. Ma questo non fece in tempo a sorgere. Quella notte stessa, l'atroce e divina presenza era resuscitata. Pregai il direttore d'andarsene, di fare in modo che non entrasse nessuno, Gli dissi che sarei rimasto a letto e respinsi la sua offerta di mandare a prendere dal farmacista la droga portentosa. Il mio rifiuto lo rallegrò, perché temeva che qualche cliente fosse disturbato dall'odore del calipto. La cosa mi valse questo complimento. «Avete deciso rettamente», voleva dire giustamente, e la seguente raccomandazione. «State attento a non sporcarvi con la porta, perché ho fatto impalmare d'olio la serratura. Se qualcuno del personale si permettesse di bussare, avrebbe quel che si merita, e se lo tengano per detto, perché non mi piacciono i dobloni», il che evidentemente significava «non mi piace dire due volte la stessa cosa», «ma non vi andrebbe per tirarvi su un goccio di vino vecchio? Ne ho giù una buona conserva, storpiatura certo di riserva. Non ve lo porterò su un piatto d'argento come la testa di Jonata e vi avverto che non è del Chateau Lafite, ma è quasi equivoco per equivalente. E siccome è leggero, potrei farvi friggere una piccola sogliola». Rifiutai il tutto, sconcertato, peraltro, da quel modo di pronunciare il nome di un pesce, la sogliola, che egli aveva dovuto ordinare chissà quante volte nella sua carriera. Malgrado le promesse del direttore, non molto tempo dopo mi portarono il biglietto ripiegato della marchesa di Cambremer. Venuta per farmi visita, la vecchia signora s'era informata se fossi in albergo e, sentendo che ero arrivato solo il giorno prima e che non stavo bene, non aveva insistito ed era ripartita, non senza fermarsi comunque davanti alla farmacia o alla merceria, dove la che, saltando di cassetta, entrava a pagare qualche conto o a fare provviste, alla volta di Féterne, nel suo vecchio calesse a 8 molle, equipaggiato con 2 cavalli. Abbastanza spesso, d'altronde, se ne udiva il rotolio e se ne ammirava il fasto nelle vie di Balbec e di altre minori località della costa situate fra Balbec e Féterne. Non che simili gite fossero motivate da quelle soste presso i fornitori. Avevano per meta, invece, qualche merenda o garden party in casa di un signorotto di campagna o d'un borghese affatto indegni di Madame de Cambremer. Ma la marchesa, pur dominando dall'alto, per nascita e fortuna, la piccola nobiltà dei dintorni, aveva talmente paura, nella sua perfetta bontà e semplicità, di deludere qualcuno da cui fosse stata invitata, che interveniva alle più insignificanti riunioni mondane del circondario. Sicuramente, anziché fare tanta strada per andare a sentire, nel caldo soffocante d'un angusto salotto, una cantante il più delle volte priva di talento, alla quale poi, nella sua qualità di gran dama della regione e di ben nota musicista, le sarebbe toccato rivolgere complimenti eccessivi, Madame de Cambremer avrebbe preferito andare a passeggio o restarsene nei suoi meravigliosi giardini di Féterne, in fondo ai quali i flutti sopiti di una piccola baia vengono a morire tra i fiori. Ma sapeva che il suo probabile arrivo era stato annunciato dal padrone di casa, si trattasse d'un nobile o d'un borghese di Menville la Tinturier o di Chateauncourt l'Orgueil. Ora, se Madame de Cambremer quel giorno fosse uscita senza fare atto di presenza alla festa, l'uno o l'altro invitato proveniente da una delle piccole spiagge disseminate lungo la costa avrebbe magari sentito e visto il calesse della marchesa, privandola della scusa di non aver potuto lasciare Féterne. D'altra parte, per quanto ripetutamente quei padroni di casa avessero visto Madame de Cambremer assistere a dei concerti organizzati da persone indegne, secondo loro di riceverla, la lieve diminuzione subita così ai loro occhi dal prestigio della troppo compiacente marchesa svaniva non appena a ricevere erano loro, e si chiedevano febbrilmente se sarebbe o non sarebbe venuta la loro festicciola. E quale sollievo a inquietudini durate giorni e giorni se, dopo il primo brano cantato dalla figlia dei padroni di casa o da qualche dilettante in villeggiatura, un invitato annunciava, segno infallibile che la marchesa avrebbe partecipato al trattenimento, di aver visto i cavalli del famoso calesse fermi davanti all'orologiaio o al droghiere. Madame de Cambremer, la quale in effetti non tardava ad arrivare, seguita dalla nuora e dagli invitati che erano in quel momento suoi ospiti e che aveva chiesto il permesso, accordato con gioia, di portare con sé, riacquistava allora tutto il suo lustro agli occhi dei padroni di casa, per i quali la ricompensa del suo agognato arrivo era stata forse causa determinante e inconfessata della decisione adottata un mese prima, accollarsi il fastidio e la spesa di dare una festa. Vedendo la marchesa presente alla loro merenda, ciò che ricordavano non era più la compiacenza con cui interveniva a quelle di vicini poco qualificati, ma l'antichità della sua famiglia, lo sfarzo del suo castello e la scortesia della nuora, nata Le Grandin, la quale, con la sua arroganza, ridava tono alla bonomia un po' scipita della suocera. Già si figuravano di leggere, nelle cronache mondane del Galois, il trafiletto che avrebbero confezionato loro stessi in famiglia, a porte ben chiuse, sull'angolino di Bretagna dove ci si diverte gagliardamente e la riunione sceltissima dalla quale non ci si è congedati prima di aver strappato agli anfitrioni la promessa di una sollecita replica. Ogni giorno aspettavano il giornale, inquieti di non avervi ancora visto apparire il loro trattenimento e temendo d'aver esibito Madame de Cambremer soltanto ai loro invitati e non anche alla moltitudine dei lettori. Finalmente giungeva il giorno benedetto. Quest'anno a Balbec la stagione è eccezionalmente brillante, sono di moda i piccoli concerti pomeridiani, eccetera. Grazie a Dio, il nome di Madame de Cambremer era stato stampato senza refusi e citato a caso, ma al primo posto. Non restava più che da mostrarsi seccati per l'indiscrezione dei giornali, potendone derivare qualche fastidio con le persone che non era stato possibile invitare, e da chiedere ipocritamente, in presenza di Madame de Cambremer, chi mai avesse avuto la perfidia di trasmettere la notizia, al che la marchesa, benevola e grand'ama, osservava: «Capisco che vi possa procurare delle noie, ma per quanto mi riguarda, sono solo felice che mi si sappia a casa vostra». Sul biglietto da visita che mi consegnarono, Madame de Cambremer aveva scarabocchiato che di lì a due giorni avrebbe dato una matinée. E sicuramente, appena due giorni prima, per quanto stanco potessi essere di vita mondana, sarebbe stato per me un vero piacere gustarne il trapianto in quei giardini, dove grazie all'esposizione di Féterne crescevano direttamente dal suolo i fichi, le palme, i rosai e persino in quel mare, d'un azzurro e d'una calma così spesso mediterranei, sui quali il piccolo yacht dei proprietari andava, prima dell'inizio della festa, a prendere gli invitati più importanti dall'altro lato della baia, per fungere poi, quando tutti erano arrivati, coi suoi velari tesi contro il sole, da sala per il rinfresco, e riaccompagnare infine la sera quelli che aveva prelevati. Lusso incantevole, ma talmente costoso che era, in parte, per far fronte alle spese che esso comportava, se Madame de Cambremer aveva cercato di incrementare le proprie rendite in vario modo, in particolare affittando per la prima volta una delle sue proprietà molto diversa da Féterne, da Raspellier. Sì, come m'avrebbe disintossicato due giorni prima dalla gran vita parigina una simile festa popolata in un nuovo scenario da piccoli nobili sconosciuti. Ma adesso i piaceri non avevano più alcun senso per me. Scrissi dunque a Madame de Cambremer per scusarmi, allo stesso modo che un'ora prima avevo fatto congedare Albertine. Il dolore aveva radicalmente abolito in me la possibilità del desiderio, così come una forte febbre toglie l'appetito. Mia madre doveva arrivare il giorno dopo. Mi sembrava d'essere meno indegno di vivere accanto a lei, di poterla capire meglio, ora che tutta una vita estranea e degradante aveva lasciato il posto al flusso degli strazianti ricordi che cingevano e nobilitavano la mia anima, al pari della sua, con la loro corona di spine. così credevo. In realtà c'è una bella distanza fra dolori veri come quello della mamma, che vi portano via letteralmente la vita per lungo tempo, a volte per sempre, dopo la perdita di una persona amata, e altri dolori, malgrado tutto passeggeri, quale sarebbe stato il mio, che fanno tanto in fretta ad andarsene quanto hanno tardato a venire, che conosciamo solo molto tempo dopo l'avvenimento, perché per sentirli abbiamo avuto bisogno, quell'avvenimento, di capirlo. Dolori come ne prova tanta gente, e da cui quello che mi stava allora torturando differiva solo per la natura del ricordo involontario.